su WhatsApp la mano mandato. Il telegiornale inizia alle 8. Chissà però che oggi mi ordino le pizze, perché devo fare la spesa e l'altra roba è tutta congelata, non ho fatto nulla e mi mangio le pizze oggi. Mi sono dimenticato di togliere la roba. E avanti, chi vuole entrare? Chi è? Me. Chi è? Me. Ciao Antoni. Ciao. Ci sono io in compagnia di Bainz. Non lo so, ciao Gabina, sono già più un'ora, ti ascolto. Controllati le orecchie, mi pare che è superata a Dumbo. È superata a Dumbo, cioè? Ah, furia di accusare con chi c'ha reci. No, era acceso, e già faccio una cosa, già la potevo entrare, capito? Mi stavo ascoltando, più o meno, a tratti, perché quando ero qua e facendo quello che dovevo fare, mi ascoltavo, poi andavo in cucina. Ah, ecco, andavo a vedere se perdonava. No, sono orecchie di porco, ciao Gabino. Ma io lo Gabino non lo sento. Perché non ha parlato, probabilmente siccome è con la figlia, la moglie è salita su e lui è con la figlia e ogni tanto gli deve dare uno sguardo. E beh, tu come stai con la gamba già? Ma meglio, in chiesa ho un po' sofferto stamattina, perché i banchi erano bassi bassi, capito? E quando mi sedevo non riuscivo a stare bene, quindi la dovevo allungare, meno male non c'era nessuno vicino a me. L'ho lasciata apposta, il bancone lungo, senza gente. E poi quei sedili si hanno fatto bene, a me ne manco gli anziani, sono fatti conca perché. Vabbè, ci siamo adeguati, dai, vedete di là. E poi ogni tanto mi alzavo, perché mi si gancara baranca. Ma già non ho quei dolori fortissimi, ho 5 di dolore, però mi è alleviato molto. Ma tu dove rimanere seduto, tanto c'è questo problema qua, non ti c'è niente nessuno, rimanere seduto e non ti devi alzare e sedere, alzare con i rompiti. Vabbè. Perché muovermi già mi fa bene, perché poi se stai troppo seduto ti si inceppa. Oh, io sono tanto mio mio, caro. Niente, domani devo andare in ospedale al settimo, no, al secondo piano, medicina urgenza. Perché al settimo piano mi ha detto quando ho scritto la carta della clinica, ha detto ma molto ci mette data, dipende da il reparto per ricoverato. Prima farà loro e prima ce la diamo. Allora io vado là, dico ascolti gentilmente, metta a porto urgenza, fate prima, fatemi aprire una cartella, il più possibile, perché devo andare al medico legale e serve solo la sua balanza. Quindi. Tu parla con la caposala. Caposala, capo papauzza, insomma, tu vuoi la capacità, che lui ce l'ha. Uia, tutto che faccia entrare, è questa storia del coronavirus, non lo so come te. A me mi avevano fatto compilare un foglio prima di entrare, ma boh, adesso non lo so se è ancora così, mi hanno fatto compilare un foglio dove ti dicevano se abbiamo avuto raffreddore, tosse. Ah, e meno c'ho problemi per quello che ti dico, sono sempre tranquillo, sano, eccetera. Sì, non voglio fare questo passo perché domani per me è decisiva, perché domani è lunedì. Poi all'altro lunedì io ho l'appuntamento a un medico legale, sono un avvocato che sposta la data. Non so se mi ricorderai, il legale accetta spostarli di 2-3 giorni, o trasposta ancora di più se altri figli, non lo so. E quindi io se riesco a fare per il 23, bene, c'ho pazienza. Scusa, ma la cartella non te la dovrò dare con lo piano di vetro? La cartella la devi richiedere tu Gianni, come a Lugo l'ho chiesta io, addirittura mi ha fatto pagare 50 euro, anche Manuele ha pagato 50 euro. Che poi era una carta per unire le dischi e basta. Il lavoro che ho fatto più grosso la seconda volta mi ha detto anche 50 euro le malle. E là c'era più lavoro che mi hanno fatto. E qua ho pagato 10. Sì, ma aspetta, forse non abbiamo spedita, ma da Ravenna e Ovi, 40 euro mi pare a me. E sono un po' esagerati, dai. Ma cosa, se quando ordini la cosa fai 20 euro, è pesante, Non lo so già, non si prende così, purtroppo dice passo un mesetto e mica devo stare un mese io lì perché mi dati la cartella clinica, mi la forzai. Vabbè, non fa niente, quello richiesto e metto una decina di giorni. Tutto dipende da loro, medicina urgenza, se dove ricoverato, se fanno in fretta. Quindi io domani faccio quello sollecitare e dire guarda che io venerdì scorso ho fatto la domanda per la cartella clinica, se mi fate un grande favore. un incontro, una potente come di collegare a Putrecenzo, se vi ricordate. E quindi boh, vediamo. Speriamo siano comprensibili. Avanti capici, sì. Boh, capire sparito. Non sarà lontanato. Niente, dopo c'era anche da Luca, purtroppo. Ho avuto quello che ho avuto, già lo sai già, quindi ho mandato un messaggio, mi ha fatto fare, mi ha bloccato su WhatsApp. Io non vedo se voglio dare né foto sua né niente, e neanche il messaggio mio ha letto. Cioè sono perfetto e basta il messaggio che l'ho mandato, che era molto mio suocero. L'ha letto? No, non ha neanche aperto, forse mi aveva bloccato, non lo so. Non lo so. Quando ci devi andare? E adesso, per adesso no, lascio stare così, per adesso già non mi interessa, adesso bisogna spiegare più le cose mie, con calma. Io questa settimana c'è tutto impegnato, devo andare a fare l'acqua, la visita, poi devo andare al capo che devo firmare con Fulvio. E io devo andare anche al capo, vedi, mi hai ricordato? Per mettere l'avvocato, un anno di arretrati c'è 17, ma ne abbiamo trovato culo, ma se metteva a zero è più contento, me ne sei fregato, ma mette 17 mi ha preso per il culo, allora ce lo denuncio. Poi vanno a Sardegna, se come dico io, e la sputtano la signora, come cazzo si chiama, Luciano, Maria, non me ne frega niente. Però deve essere sicuro di aver ragione. Ho detto che prima informo, se è come dico io, certamente, ma anche Luigi me l'ha detto a me, questa trotta si è sbagliata, così ha detto. E non ha detto, Luigi. Eh? Ma tu poi hai parlato con lei o con un altro impiegato? No, io l'ho parlato con quella che mi ha dato, mi ha parlato al telefono per andarci e poi sono andato lo stesso invece. Quindi. E me l'ha girata e rigirata come le parole che dicono loro, già li girano poco bene, ho detto guarda inutile, non mi sta incazzando, perché io adesso da uno mi fa i conti, che sa fare i conti, mi informo bene e se è possibile vado anche a Roma Sardegna, ma ve lo metterò sulla nuova perché c'è quella signora Ugiano, quella che ha firmato il foglio, chi l'ha fatto i conti non lo so, se l'ha fatto lì si prende la responsabilità lì, o se non l'ha fatto lì chi l'ha fatto gli altri, lì ha dato l'accordo con la prima sua, ci passerà anche lì. Mi ha parlato male, non mi frega niente. A me lui chiedo, la trotta si è sbagliata. E gli ho detto, la trotta, ha detto sì perché c'è un carattere di potacca di dai. Allora, stavo parlando con un signore l'altro giorno ad Italy, un signore che prende una grossa pensione perché era responsabile di De Grossa. Mi ha detto che dopo 8 anni si è accorto che gli stavano rubando 180 euro ogni mese e adesso ho fatto il ricorso e gli devo dare tutti gli arretrati. Ma guarda loro, allora con tanti ci passa tempo Gianni, se devi dare tu a loro, guai, le vogliono subito. Sì, perché poi anche se fanno il processo, sono tutte cose lunghe, se si possono evitare è meglio pure. Però intanto non li vedi subito, infatti, come dici, passa tempo, sono cose molto lunghe. C'è una burocrazia allucinante pure. Guarda, noi in 28 abbiamo denunciato l'IPS. Abbiamo fatto la causa, abbiamo vinto, si è appellata, ha perso anche l'appello. Riferrato sono passati esattamente in tutto 10 anni. E però la data di venire a 15.000 euro la farà a persona, non me ne fotti nulla. Però se vedi, se uno ha bisogno subito dei soldi, deve aspettare. Poco la fa. No, anche io via. Adesso faccio tutto. Sì, conviene mettermi il ferro quando è ancora caldo, anche i salienti, ma carezzai. Ora parliamo dell'INAIL, ma carezzai un altro di fortuna, non è un mirato fortunato che ci ho dito tagliato. Allora non c'era c'era l'articolo 70 praticamente, e doveva anticiparci, cioè no, non c'era l'articolo 70, perdono, doveva darci l'infortunio all'anticipo, gli acconti eccetera eccetera. Poi hanno concordato dopo tanto l'articolo 70 che giustamente c'è da anticipare l'azienda con questo dell'infortunio, e poi lì ne dava l'azienda comunque. Quando sa che andavo sempre lì, ho usato due picchi con papà, ma credi una cadena che ci vede. E l'ho dato di un frigo elettrico, ma era in buco, in occhiare, dice per quello che c'hai un altro pacchetto siete e tu te la funzioni a posto il pacchetto uno me la fumo io e di sennò vedere come due muori giù di cacca lo vai a non ammara io mi stavo sempre posto qua insomma niente alla fine vado qua se ci sono le soliti non c'è niente va messo al direttore ma la cosa di oggi non c'è se mi dico, se c'è vado verso il giù per niente c'è un laboratorio qui c'è la scala interna mi vieni qua fermati c'è le palle vieni più fuori e mi fermi tu e ci ho pensato sopra leggo direttore apro di colpo come si permette come mi permette ho subito buttare giù la fine adesso mi avete rotto le palle a bozze si calmi cosa è successo me già gli spiego con calma incazzato tutto quello che è successo attendono di mio si sieda e si calmi noto chiamo la banca sì tenga questo numero è mandato guarda c'è il 2000 2001 non c'era la linea c'era le magieci se non fai casino Sì, ma secondo chi trovi ti chiama il carabinieri e ti vuoi dare il secondo chi trovi quando trovi persone prepotenti agiscono così negli uffici specialmente ci sono le guardie giurate questo e quell'altro purtroppo a me la vita mi ha rubato perché mi doveva dare il 70% l'INAIL e il 30% la ditta non me ne ha mai dato il 30%, adesso che mi aveva già pagato l'assicurazione che non mi doveva dare niente. Tu passi il tempo, ti sei informato poi di conti se era così? Sì, sono andato al direttore dell'INAIL, ha detto che loro già lo sanno che me li devono dare, fanno i loschi. Ti sei passato i dati del corpo? Ha detto che loro praticamente lo sanno che me li devono dare, però fanno i loschi. Come è? Sì, si so più basso il radio già. Massimo mi senti adesso? Adesso no. Non lo so, io non sto toccando nulla, sto parlando come stavo parlando poco fa. Batteria è buona, sì. Non ne ho io batteria, questo qui è un microfono normale. Allora, tu. Il mio figlio riconosce te l'avevi poi. L'ho immaginato che era lui, perché ho fatto 2+2=4, gliel'ho detto io, gli ho detto sono l'amico di tuo padre, sono Gianni. E ci siamo presentati, dai. Poi c'era tua figlia, l'ho chiesto, gli ho detto ma è tuo fratello, sì, è lui. E lui esattamente adesso del 79, esattamente fa 44 anni. Sembra un po' più giovane sempre, sembra sulla trentina. E quella che c'era vicino era la compagna, così? Sì, è più grande di lui. Quanti anni c'ha la compagna? 50. 50? Via. E vabbè, non è tanto più grande, là. Non sai cosa c'è, che lui è molto giovanile. Lo so, anch'io, preso a me. Perché se non ti vedi io quasi 70 anni, qui lo faccio 69 anni, mi non me ne da nessuno già. Sono un cazzo. Ciao Gavino. Ciao Gavino. Ciao a tutti, buonasera. E questa è radio. No, se vuoi ti registro, la faccio sentire, guarda, capi, quando stai uscendo a me è bene, se hai cambiato il microfono non toccare le maniche, io ti sento graffiante. Graffiante, non c'ha qualche granchio il microfono. Se mi zino poco d'ora, quindi, e anche al mare. No, veramente, capi, come radio, la verità, a me non piace, poi non so come ti ascolta Gianni, io la verità ti ho sentito anche meglio prima. È cupa, capi, è un po' cupa, Io come sto scendo di radio, capisci? Mi ha detto Torino che sto scendo basso. Adesso no, Gianni. È più basso. Guarda, bene, ancora qui fai già. Prova. Non ho toccato niente, è sempre quello di poco fa, guarda un pochino, ora, guarda un po'. Adesso va meglio. Adesso leggermente meglio di prima, quello sì, ma prima era più... È una bruttina, capì, veramente, non mi piaceva. Perché la torre ci do bella chiara e forza, ragazzi. Sto usando un apparato diverso, sto usando lo stesso che sta usando Gianni. Sto usando lo stesso che sta usando Gianni e niente, devo fare forse perché stavo parlando a voce bassa, forse perché stavo parlando a voce bassa e allora mi sentivo un po' cuffo. adesso la nazionalità normale la discorso. La nazionalità la discorso. E, niente, superstar 2009. Ma sempre con Mixer? Assolutamente no. Capito, l'hai tolto direttamente. Capì, ma la radio mia bassa e confermi? No, Gianni, io sto facendo bene. Ma se mi chiama attendi già, cosa bassa? Ho già, ho detto che adesso stai facendo bene. Boh. Strano, non ho toccato nulla. Si era abbassato leggermente la tonalità e poi ci si è ripreso. Radio Monte Carlo. Minomi. Radio Monte Carlo. Manue. Oh, dove si abbassa mio salone? Vai, ci un po'. Manue. Ehi. Andiamo bene, andiamo. Ai, ai, ai. Io sono sempre mi. La mi. Tutto gonfio. Dunque, Manue. Manue. Ma ho parlato, Zé. Ehi, dimmi. Ehi, quello che mi hai detto io non è che ci credo più di tanto, anche tu ti male di già le racconti. Eh no. Quello che mi hai detto non ci credo. E cosa? Della vetrinetta. Ehi, vai, ma vai, venita. Certo. Sto scherzando. È arrivato quelli delicati qua portandola in macchina, sto qua smontando tutto e poi, caso strano, scivoli tu e scivola anche lui e rompe tutto, dai. Tutto a pezzi, tutto a pezzi. Sì, come sei tutto gonfio tu e tutto a pezzi. La mazza devi fare, poi ti faccio la sorpresa qualche giorno. Ti buoni menti a Emanuele, ui. Sì, guarda, una dice e cento ne fa. Capito, ascolti a Emanuele. No, già, no, devo tiro fuori, ho un po' di QRM io qua, Ho un po' di QRM e non lo ascolto. C'è la zenna base magnetica dentro casa, capito, capito? Allora non ci posso fare niente. Allora non ci posso fare niente. Gianni, ma come fa questa radio? Confermi. È un po' cupa, capito? Io ti devo dire la verità. È un po' cupa. Io non lo so, non ho toccato niente da poco fa. Da come stavo parlando con te non ho toccato niente. Non lo so. Rimane un po' cupa, ma già è comprensibile. Allora si trova. Vai, riprendi. Allora, Manuè, Gavino si trova tra quella strada che fa Sorso a Porto Torres, più vicino a Sorso. Ah, è cazzo, allora già lo vedo, ma sai. Beh, non dicete per quello pure, tu ci condizioni precarie, poi dobbiamo abiti tu, sono tutti panniti prefabbricati, ci metto armato, cosa vuoi di più? No, perché lui lo cerca poco a poco, capito? Perché lui, Manuè, cosa hai detto? Perché lui lo cerca basso, lo stesso. Tu lo senti basso, lui ci accorrebbe, non ti sente. Sì. Strada provinciale Sorso di Bidriazzi. Sì, dove c'è... già ho capito dove è. Cara. Gloria. E allora, Manuè, quando la mettiamo questa antenna su te? Sì, mai. Anche la mentale salute. Ho già. Ma tu l'hai visto il tetto di Manuele? Ma non ci ho mai fatto caso tu. E allora, tu fai un triangolo, metti così e dire buoni a tetto. C'è per un buco nel tetto o crolla il palazzo? Pure da un balcone la bocca. Non la vuoi mettere? No, lascia stare. Dei figli da stendere, devi fare dei figli da stendere. Manuele. Un dipolo. Dipolo, ma no, non metterei. Neanche dipolo, ma come se lo la fai? Tipo un piccolo sensore, moto a carica, emette l'antenna, la notte, se lo vi su in alto, quando è finito modulare, accende, è morto. Che cazzo? Vedi, 30 metri di cavo, si è a posto. Bella come idea, Gianni. Cosa? Ho detto bella che l'idea che ho dato, un piccolo sensore, moto a carica, e dall'antenna di notte, per tirare su, e quando è finito modulare, scende con moto a carica e li porta tutto dentro. Vabbè. Buona idea, solo che se lo usano gli altri, poi c'è già delle pareti, non degli altri. Però mi piacco là, tu dici, non manchi cazzo. È un casino, quando sei in città è un casino, quando sei in città e non puoi montarla è un casino. Guarda, cosa vuoi che ti dica? Piazza un dipolo sul tetto, da una parte e dall'altra. Lo abbraccia e stai andando. Se mi senti. Buonasera, Emanuele. Sì, come sono io già sto bene, capito? Se avete visto come ce l'ho a tenere io. Sì, no, ma sto dicendo Emanuele, sto dicendo a Manuela, mettersi un dipolo. E vabbè, ho cambiato il microfono comunque, ho cambiato il microfono. È più buona come radio questa qua. Sì, ma dipolo non le vuole. dice come vedo qualche filo, si pensa che disturba la televisione, fanno casino, capito? Ma tu abiti in un condominio, è un casino mio, capito? Metto l'antenna filare da una parte all'altra della facciata e lui va, ci sono queste antenne filari che vanno alla grande, si trovano anche su Amazon. Ma Manuele ora che è molto tirata la frequenza, non avrei quasi mai nessuno, tutto qua. Manuele, non vedi, ogni tanto si sposta, meno su migliaia di effetti, poi c'è una bella collezione di consigli, se li vedi, e senza la va, preso uno di quei consigli, se muoce la travanca e comincia a tagliarsi la schizza e pensi i fetti di pane e comincia il calcio a mangiare. Vero Manuele? Sì, Manuele. Una arborezza, però l'ho pagata a 180 euro, ma bella però, è bella grande. Se passa adesso ho fatto la bacchecca col verso. Già mi stai uscendo sfoccato. Ho capito, capito. Che a volte ti manca la modulazione? Ecco, come ho detto io poco fa a lui. Manca la modulazione. Vieni di nuovo. Forse lo schiaccia bene già. Adesso provo a stare attento, va. Provo a stare attento, a schiacciare bene, vediamo un po'. No, io c'ho l'armuresa, è bella panzuta, rimane. È copiato, Manuele? Ma niente, appetiti. Cos'è? Ho detto, io mi sono comprato un'armuresa, che è bella panzuta, che taglia un bel. Dove l'hai presa? L'ho presa ad Arborea, quando sono andato ad Arborea. L'ho presa in una bancarella di una festa che c'è in Arborea, stavano vendendo consigli e ho chiesto e me l'ho comprata. Sono belle, sono belle. Era un artigiano, è un artigiano che le fa lui, le fa lui e le vende, capito? Sì, ma che c'è anche qui a Sassesa, c'è uno che le fa a mano. E io avevo anche un collega che le faceva lui, si rivendeva. Ma non sono mai come le patatesi originali, dai. Patatesi sono più belle. Ma non è? Sì. Beh, avevo ragione, la mazza. Sì, sarai. Sì, vedi che non è, sei passata. Se, io ce l'ho creduto, intanto. Siccome ti conosco e tu sei Pinocchio. Vabbè, l'ho tutta pulita, l'ho stuccata, aveva tutti i buchi, virali. Tutta graffiata. Ma cosa graffiata, vedi, l'avrei graffiata zuppa. No, era segnata, non era graffiata io, che mancava la vernice. Ma io me l'ho mangiato subito, Tomma, lo ero, e tu dici, ma non mi dico, perché ti conosco, ci tenevi tanto, e quindi, e Tomma, ho detto proprio queste cose qua. Bene, ci sta, no? Sì. Ci ho messo la radio sotto, non l'hai vista? Già, vedi se riesci a trovarmi Radio Vintage. Radio Vintage? Cosa se faccio la collezione? Sì, l'ho messa una vicina, gli altri che ci avevo. Mi lo sai chi è appassionato? Roberto Quadrato, ne ha un bel. C'ha anche quella col televisore dentro. Bella anche quella. Io sono un giornalista che sto vendendo col frigorifero. Roberto ne ha tante. Ma io non mi ricordo, ne avevo, ma non ho più niente. Non ne ho più. Devo venire a Portobello. Sono belle. Ne avevo una a Radio Marilli, ed era dei miei, praticamente c'era il giradischi sopra, la radio che prendeva un bel di onda di frequenza, c'aveva un gogo di onda di frequenza, medie, corte, lunghe, c'aveva un bel di frequenza. E io c'ho quella e poi quelle radio piccoline con la cassetta, quelle che si usavano una volta. Se ti sei appassionato in queste cose qua adesso. Sì. Ma ti rivendi, io lo so qui, non ti dura ne assai, dai. Se quando c'è la faccia lo te le vedi. Avanti, capi. Positivo. C'avevo anch'io qualche radio, quelle onde corte, onde medie, bellina. Quello tutte regalate. Io tutte regalate. Che non ne faccio niente. E io tutte regalate. Chi ha la passione, dai, che la passione già. Ma non sai dove le puoi trovare, provo ad andare a Portobello queste zone qua a vedere se ne hanno. E poi ce ne sono diversi, adesso ne hanno aperto altri, tipo il negozio di Misato, ce n'è uno anche, come si chiama quella via, non me lo ricordo, vabbè, salendo da Bricocina, sali dritto, c'è sulla destra c'è una bicicletta, sempre fuori c'è scritto negozio dell'usato. Affari tuoi, si chiama Affari tuoi. Affari tuoi si chiama. Sì, ne ho preso una. Beh ragazzi, io chiudo. Ehi Gabi, dai, ci sentiamo, buona serata. Mangiare dimmi Gabi. No, chiudo, volevo fare cosa già, chiudo, volevo fare cosa. Ci sentiamo tutte le prossime, ciao Emanuele, ciao Gianni, ciao Tommy, tutte le prossime, ciao ciao. Ciao ciao, ciao, avanti Gabi, avanti Tony. Capa, ciao Gabi, ci sentiamo, stiamo bene. Manuè, attenzione, Radio Pinocchio. Radio Pupazzo. Cazzo Pinocchio. A Manuele gli manca la superscatola. Con lo scappellamento a sinistra. Ciao Natali. Oui Natali. Manuele. E forza Natali, non scegliate la Radio Vintage. Natali, Radio Vintage, ciao. No, negativo, non ho nulla, c'ho solo questo baracchino e buco. Ma no, Radio Cipino. E neanche di quelle radio normali, non ho. Non ho né CB né radio normali, vai, c'è solo chi sta e buco. Ah, vabbè. Oh, un attimino, dai, che devo fare la telefonata. Eccomi. Grappa, è andata bene. E io ne ho un paio, se ti interessa, ma non è 5-600 euro già te ne ho. Una risa mi è cappata. Eia. E mi lascerà Dio. Ma adesso, quando ce l'ho io, il nome mio, capito, è importante. Ma non sa cosa l'ho fatto io. L'ho spolverata. Ma attendendo l'altro. E allora? Manzano, un po' più non lo faccio. E dopo quello lì poi chiamo Alexa, metti musica che lì. Ah, e tu ti piace me quella con le valvole, l'altra cioè a San Fisco. Quella là con le valvole ti piace. L'ho accesa, ho fatto la prolunga, ho messo tutto dietro la canaletta, ho fatto un bel lavoro, ma non è. Adesso funziona bene. Andava bene. Vedete dove c'era la vetrinetta prima, capito? Dove c'è l'automobile e lì è sistemata. Sì, adesso ci sta anche quello che c'è in garage, quello con il giradischi, si compra anche questo. Non ho capito, poi ci sta. No, quello c'è sotto la televisione. Ah, e lì dove c'era prima cosa c'è messo? Quello che ho mobiletto fatto a persiane, che l'avevo fatto io stesso tantissimo tempo fa, capito? Però lo devo di nuovo togliere fuori, passare... lo riprendo da zero praticamente, perché quando ero in un'altra casa praticamente le ho messo una vetrinetta sopra e per non graffiare le ho messo questo cavo di coso tipo a soffa però adesiva, talmente potente che non è più uscito, ho cercato di strappare e sono uscito, allora devo passare la molezza con il merino che lo faccio a legno vivo e poi li faccio i frati, capito? È un bel lavoro che devo fare. Andare. Va bene, ma io adesso già va bene con la vita. A parte che ci vuole una vetrina più grande. Dai, pensavo. Natali, una vetrina più grande per Emanuele ce l'hai? Minimo, ci vuole una di 2 metri, cosa ti posso dire, perfetto. 2 metri di altezza, 3 metri di larghezza. E allora? Gianni? Tony, cosa stavi dicendo che non ti ho sentito poco fa? Che mi sono spostato a fare scendere il cane. Guarda se c'è qualche mitraglietta per Emanuele, che la vuole 3 metri per 2. Cosa vuole? Una mitraglietta. Una vetrinetta. Quale mitraglietta? Io non ne ho mitragliette. Emanuele. Una mitraglietta, una vetrinetta. Non ne ho vetrinetta. Cazzo una mitraglietta, dai, cazzo di una mazza. Cosa il Tonino ha detto si davi una mitraglietta, ma te? Vetrinetta da Ponaro. Cazzo una mitraglietta. Ma Gianni non c'è più. E adesso si crea al telefono. Ah, ok. Quando è che posso passare, Emanuele, che poi ci mettiamo d'accordo per quell'altra cosa che ti avevo accennato prima, così mi tutta la vetrina. Ecco, John Zai. Non si dà quella. Ma cos'è che preso? No, già c'è lui, non preoccuparti. Io sto parlando dei 23 canali, dei vintage. Dei 23? Dei 23 canali. Ah, che brutto di nostro. Io volevo altre quelle radio normali. Tra l'altro dicevavo io. Dai, ci mettiamo d'accordo, vengo io a scegliere, non preoccuparti. Non vengo nulla a Giovanna, non vengo più nulla. Me lo vedi roba. Cazzo, a Giovanna. E io non si chiedevo mai a cantare in cruzio, o Natali. Tonino c'ha il mercato all'ingrosso, c'ha di tutto. Non è vero, io sono povero e nero, c'ho poca roba e mi devo anch'io ingrandire un pochettino. E siccome Emanuele c'ha un capannone di 5.000 metri quadri, qui devo scegliere. Oh signore, cazzo, insomma, il mio povero uso qui roba giuda. Emanuele, pensaci tu alla Tonino. Allora, fa niente io, il negozio è chiuso. In tesura, Isso Manuele. Il negozio è chiuso perché l'occhio a me. Ma poi già apre la mancare, non preoccuparti. Oh, Manuele, con quello che stai modulando, se lo moderato c'è anche il Roswell incorporato. Sto già nel vigile. C'è da qualcuno di radio. Cos'è già? Chiedi a Luca a vedere se te ne busca qualcuna di quelle radio. A Luca là. Luca. Ma Mari. No, la vera di quelle radio. No, lui c'ha ricevitori, capito? Altre radio moderne. E della farmacia, è caro. No, la vera di quelle radio di quelle a basso la vera. Solo radio CD. Ah, tu valvolare lo stai cercando? Io sto cercando radio, ma compreso la radio sto cercando io? Sono quella radio vintage degli anni 40, 50. Già ti ho capito. Te l'ho anche detto che ne avevo una di quelle. C'aveva, alzavi il coperchio, era grande, alzavi il coperchio e c'era il giradischi. Poi sotto c'era la radio col sintonizzatore, dei manopoloni del volume grande. E c'ho quella pure io. Ed era o il radio, mi pare il radio forse. No, il radio è possibile, sarà stata Radio Marilli, Rudy. Ah, è Radio Marilli, sì, Radio Marilli, era non il radio. Radio Marilli, sì. Ho visto un tipo, Cotoni, su internet, stava contando gli spiccioli, tu dovevi vedere cosa c'aveva gli spiccioli, montagne di spiccioli. E dove l'hai visto? Su internet, su TikTok. Ah, forse è uno che ti mandava le musiche. No, Tony, non è che ti ho detto le musiche, è chi sono, sicuramente è qualcuno che ha macchinette e roba del genere. Ti sto dicendo che lì minimo c'erano 20.000 euro, tutti quanti in euro, 2 euro, eccetera. Una montagna, un tavolo tutto pieno, a montagna. E allora qualche macchinetta, allora, qualche gioco, una videopoker, eccetera. E mi stava contando, gli ho detto, senti, serve una mano, per darti una mano io. Ma in quelle c'erano già le macchiette che contano i soldi, mi da unire 2 euro. Io l'ho visto, l'hanno scaricato con la macchietta, girava veloce. Lo so, ce l'hanno anche da nonna Isa, quando li porto gli spiccioli, perché io li conservo, poi a Natale li tolgo dal savadanaio e mi faccio i regali. E praticamente le ho portate, me le ha contate con quella macchietta, adesso l'hanno portata in un'altra nonna Isa, la piazzetta mi pare, e non ne vogliono più soldi perché devo contarle a mano. Manuel, aiutai, domani ci sei, domani pomeriggio passo. Domani non ci sono per nessuno, domani devo andare dalla dottoressa e poi devo andare a Passara. Vabbè, quando passo adesso non te lo dico. Carlo Svego, vero un zazzi, si è perso all'improvviso e tacciamo. Poi mi metto il dito incollato al campanello e vedi si apre. Mucca che la sembra con la corrente. Oh già, quando vado a Emanuele, ci piace il campanello, faccio il fisso. Natali, ti presto il fucile a pompa, glielo butti giù il coso, il campanello. No, qualche volta mi porto la secchina, anziché c'è un guarito che mi stanco. E l'infilo la secchina. Bene, va così, Emanuele. Sì, ja. Ma te, ma com'è che è contento? Va bene, eh. Però qui c'è un giganioso. Ma come hai fatto a assaggiare la fetta di cavallo? Si è volata via, cari. Sì, se ne è fuggita. È buone. E trovi la parte dietro, l'altro. No, già. E mo. Guarda su WhatsApp. Ehi, anche io gli ho mandato una WhatsApp, te l'ho fatta vedere che faccio io. La che ti ha dato? Ehi, però quello con gira dischi che non l'ho mandato, l'altro non gliel'ho mandato. Tu, 7, 8, 9, 10, io, dai, ti lascio. Mi devo preparare qualcosa a mangiare. Guarda che potrò fare, faccio un'insalatina, mi sa, boh. Ma noi, se niente più tardi ci sentiamo lì, Vitali, cosa dici? No, ma io mi guardo la televisione, io quei 10 minuti, un quarto d'ora, così, poi mi faccio la televisione. Se devo buscare in piedi, mi attacca per il baracchino. In piedi, buona gatria, un sgambello. E mi guardo il giornale, se mi preparo qualcosa, mi preparo. Andà bene, ok, dai, ma noi già ci sentiamo, non c'è problema. Ciao, stai bene, buon proseguo, ciao Natalino, salutami la 50 e ciao Gianni, statemi bene, buon proseguo, alla prossima, ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo. Manuele, ma questa qua mette più dischi, bella mette più dischi in una volta, tipo quella di Real DJ. Eh sì, puoi mettere la colonna, no? Metti la colonna al centro del piatto e carichi i dischi. Ma non male che le tessine sono ancora buone, le puntine. E la giovata tutta revisionata. E chi lo fa questo lavoro? Un amico di Viale d'Arte. Ah, ho capito chi è. Ho capito. Chi vende anche. Avanti Natali. Sì, non mi avete lasciato neanche salutare a Tonino. Ciao Tonino, buon tutto, alle prossime. Ciao ciao Tony, ci sentiamo. Quella di Tonino è bella, ma è... no, non è antica, questa qua è di quelle fatte tipo antico, ma non è antica. Manuel, Melina quanto vuoi, però non è antica. No, quella tua è bella, senza ombra di dubbio. Tutte da internet le beccate. Anche a Cagliari fanno la fiera, fanno il mercatino a Cagliari, mi sa la domenica. Ci vanno anche degli amici miei. Ha comprato questo amico mio che la faccia della fotografia, un apparecchio per sviluppare le foto, l'ha pagato una cazzata, mi pare 20 euro, e ne costa 30 volte di più. Sono andato in due, capito? È andato insieme a uno che aveva un negozio a Sassari di queste cose qua antiche, e se ne intende un bel. Sono andati in due e hanno comprato un po' di roba, capito? Quindi non sono andati per niente. Sei sempre i rendi, là. E dove te le metti, Manuel, tutte queste radio? Ah? Cappa, dai. Meglio visto che sento malato di Zagis. Ma appunto. Poi magari decidi di farti una cameretta lì e sbaratti tutto, lo so già. Comunque Roberto lo sa dove prendere, perché lui ne ha, capito? Chiedi a lui, a Roberto Quadrato, quando lo senti. Io mi ricordo che una volta sono andato a casa sua e ne ho visto parecchi, addirittura me ne ha fatto vedere una che aveva il televisore dentro, il bianco e nero. Kappa, vabbè. A chi piacciono, ma sono belle. Sono tutte valvolari quelle lì, e poi le valvole si trovano se si barrano. Natali, riprendi. Riprendo per chiudere che ho passato il limite. Sono già messo manco di e non me ne rabbizzato. Dai, dai, lo seguito dalle fonesia. Miau. Ciao, ciao, ci sentiamo, Manuel. Ciao, Natali, ciao, ciao.